oggi. In ogni mia ora c'è Silvia. E lei, una parte di me. La mia vita sbagliata ha raccolto e ha dato calore. È un uomo finito ed oggi so vincere il mondo. Ma se oggi c'è Silvia, che forza che mi viene da lei. Lei capisce i problemi di un uomo che in fondo è un bambino. Sa guidarmi per mano e indicarmi la strada sicura. Ma se oggi